diciamo anche che la struttura fisica del coffee break non aiuta poi a ritrovare la strada del convegno, il sole. Io riprenderei dando la parola a Stefano Vitta, che l'aveva chiesto prima, scusandomi perché si trova l'audience. Sul caso che prima ha citato Paolo della mail che è stata inviata credo tutti i blogger, perché è una notizia che l'abbiamo ricevuta veramente in tanti, del prossimo evento organizzato da Yahoo, che è un evento basato sul web 2.0, quindi magari è più interessante per i blog. Però la mail intanto è personale, quindi vuol dire che comunque qualcuno si è preso la briga di andare a vedere blog per blog la mail e il nome. E comunque, se noi andiamo a criticare le aziende che poi invitano il blog, che sì, è vero, non ci conoscono, non sappiamo chi sono, però evidentemente è anche logico che ci invitano per farci intervenire con la speranza che poi noi riscriveremo, però non sanno cosa scriveremo. Quindi io comunque non lo criticherei come atteggiamento, nel senso, ma che pensi che il blogger scrive, ma basta che tu lo inviti, lui scrive, oppure ho frainteso cosa stai dicendo, quindi ti chiedevo di specificare. Poi, come seconda cosa, tornando su cosa potremmo chiedere alle aziende o come vorremmo che comunicassero le aziende, io credo che comunque il problema principale delle nostre aziende medio-grandi sia anche proprio la loro paura della trasparenza, che non è un argomento da web 2.0, da social network e di blog, ma è proprio il modo di fare azienda. Cioè, noi ci troviamo, ultima notizia, mi sembra il CEO di Sun che abbia pubblicato un ultimo post dove giustificava il licenziamento di migliaia di lavoratori. Voi riuscite a immaginare una nostra azienda, una Fiat, una Telecom, che con il suo amministratore delegato scriva un post di questo tipo? È anche un po' una questione di cultura, forse. C'è qualcuno che vuole rispondere alla domanda di prima, come vorreste che le aziende comunicassero? Elena? È bellissimo, ho sempre sognato farlo. Allora, abbiamo qui Elena Antoniazza, non so, che non ha un blog, però è, diciamo, la moderatrice della mailing list di marketing più usata in Italia, anche perché è l'unica. Non è l'unica, è vero. Ma è anche qui come direttrice marketing di PayPal, quindi scelga lei con il che veste. Rifammi la domanda, perché non c'è. La domanda è: tenuto conto della realtà dei fatti, quindi del fatto che le aziende devono vendere, fare profitti, giustificare le loro azioni agli azionisti, al management, e che comunque non viviamo in un mondo perfetto, come vorresti che le aziende ti informassero? Qua si parla di blog soprattutto, quindi sicuramente il blog è un ottimo modo, secondo me, per avere informazioni non filtrate, non, come dire, controllate alla base. Dall'altro lato io lo vedo anche dal punto di vista aziendale, quindi ti dico come a me piacerebbe comunicare per la mia azienda. Il blog sicuramente è una delle modalità che abbiamo pensato, e non solo noi in Italia. Il vero problema però dal punto di vista aziendale, in alcune aziende anche avanzate, perché comunque PayPal fa parte del gruppo eBay, che non è proprio, come dire, un IBM della situazione, però ci sono una serie di limitazioni, di problematiche legali, di controlli che devono essere fatti sui singoli post prima che vengano pubblicati, che rendono per esempio lo strumento del blog assolutamente inutilizzabile. Quindi a me, come utilizzatore di PayPal, piacerebbe leggere per esempio le notizie su PayPal o alcuni aggiornamenti o alcuni siti che lo accettano da un blog, però come responsabile marketing di PayPal so che non lo posso fare, quindi ci sono delle limitazioni, secondo me anche strutturali, in alcune aziende che purtroppo dal lato del consumatore finale o del lettore finale non sono sempre così visibili. Beh no, alcune secondo me hanno un po', pensiamo ai casi famosi di Google, cioè non hanno comunque un legale che rivede tutti i post prima che vengano messi sul blog di Google. poi ci sono quelli, no, per esperienza personale so che non succede, ovviamente ci sono delle regole di comportamento per cui non puoi scrivere, non puoi condividere dati particolari per country, puoi magari dare dei dati aggregati, puoi comunicare delle novità ma che siano già state comunicate alla stampa, quindi ci sono delle restrizioni che si applicano alle aziende per esempio quotate al Nasdaq, ma che sono valide per tutte. Poi nel singolo post ci sono naturalmente limitazioni specifiche che però possono essere comunque travisate oppure applicate in modo molto originale e quindi dare luogo a problemi poi effettivamente gravi. Cristiano. Ciao, sono Cristiano Callegari. Volevo sentire la vostra opinione sulle aziende che invece già stanno usando lo strumento blog, cioè che si sono aperte un corporate blog, come sappiamo che si chiama. Abbiamo sentito prima parlare di Ducati, però sappiamo che ci sono anche altri esempi, mi sembra che Samsung abbia fatto qualcosa di simile, se non sbaglio. Se voi avete un'idea di come si sta evolvendo il corporate blogging italiano e se ci sono dei modelli prevalenti, cioè se il modello prevalente è quello di far scrivere il blog all'amministratore delegato, quello di aprire a tot sviluppatori, come il caso Microsoft o il caso Google Blog, o altri progetti o altri modelli interessanti. Grazie. Mm-hmm. Chi vuole rispondere? Beh, c'è un convegno tra un paio di settimane, tra 10 giorni, proprio sui corporate blog organizzato da Telecom. Mm-hmm. Alle aziende piace blog. Io non so, il caso di Ducati mi sembra più facile, nel senso che le aziende dove il rapporto anche tra l'amministratore delegato e il pubblico però è così vincolato e così forte rispetto a un marchio, a uno stile, a una passione comune, mi sembra molto semplice. C'è anche un caso del genere sulla Maserati, sulla Ferrari, adesso non mi ricordo, comunque un'altra casa automobilistica che sta facendo operazioni simili di corporate blogging o qualcosa del genere, però come dire, si conta molto sullo stile Ducati, e l'amministratore delegato mi dà un'anticipazione, cioè, ma ci si muove in un ambito delle passioni che mi sembra molto semplice. Sinceramente mi sembra complicatissimo in altri settori, da quello bancario, ma anche facendo un esempio vicino, anche quello di una casa editrice, mi sembra difficile immaginare che l'amministratore aprire un corporate blog e fare un'operazione sensata, perché o lo fa raccontando di sé e quindi racconta della sua famiglia, di quello che ha fatto il weekend, però tutto sommato non mi sembra molto interessante, oppure parlare di un'azienda come Mondadori quotata in borsa, che ha tutta una serie di attività, che è esposta un giorno sì e un giorno anche a questioni politiche, di attualità, cioè, insomma, mi sembra un'operazione molto difficile. Io credo che in questa fase sarebbe anche controproducente, tutto sommato, cioè non credo che ci sia nemmeno un tipo di pubblico pronto a blog di questo genere, mentre probabilmente è più facile, quindi questo pubblico si può anche preparare se si parte da aziende diverse, comunque che abbiano prodotti diversi è qualcosa dove appunto la conversazione si avvia su passioni comuni, oppure potrebbe essere adesso, magari un blog dove si parla di libri, allora ecco forse sì, l'amministratore delegato di Mondadori potrebbe aprire un blog dove parla di libri, questo però potrebbe essere. Un sondaggio, a qualcuno di voi interesserebbe leggere il blog dell'amministratore delegato di Mondadori in cui evidentemente non si racconterà le cose segrete? Con i tempi che evidentemente nel settore di arte della cultura potrà avere, che il verificare. perché lui è richiesto, dice scrupolosamente. Tipo TED, che l'indirizzo del blog è ted.out.com. Lui scrive attraverso l'ufficio pubblica creazione, cioè quindi di fatto lui scrive dei post che vengono approvati dall'EPR. Fino adesso l'EPR hanno cassato un post nei primi tre mesi di attività. E racconta l'azienda, racconta le novità, racconta. È un blog che è molto popolare, sta avendo un notevole successo perché? Perché è evidente che la visione che ha dell'azienda, lui è vice president, quindi diciamo comunque un funzionario di alto livello, è diversa rispetto alla visione immediata dell'azienda che hanno le pubbliche relazioni, è molto più diretta, ed è interessante perché, come dicevo lui prima, è una persona, cioè, per cui è credibile perché c'è Ted con la barba punta e la panza grande, con la caricatura sul suo blog, che racconta la sua, che racconta la sua azienda. Ma non vedo perché non potrebbe succedere. Allora, capisco. No, però la cosa interessante secondo me è appunto è una persona, quindi il punto è questa persona ha qualcosa di interessante da dire, cioè questa persona ha uno sguardo da blogger, ha uno stile da blogger, riesce a far appassionare le persone a qualunque cosa o no? Cioè secondo me la difficoltà aziendale di avere un blog e trovare la persona giusta che non solo possa dire, perché magari lui dovrebbe fare un blog divertentissimo sulla vita di una filiale, il punto è che si creino, che si abbiano le due condizioni insieme, cioè che la persona possa parlare liberamente, e qui abbiamo un vice president che gli passano i post, quindi sono più libera io che posso dire quello che voglio di io o chiunque no, di noi, ma appunto non sono quotato, sì. Però appunto la difficoltà è trovare all'interno di un'azienda una persona che abbia l'autorità e il via libera per parlare e che lo sappia anche fare. Quindi per noi il punto non è astratto, è banalizzo. L'interesse dipende da quanto questa persona è capace di comunicare. No, ma aspetta. Capace di comunicare più di scritto su un blog. Cioè magari un grandissimo oratore quello, se torniamo per terra, la difficoltà è questa: un'azienda il cui amministratore delegato non è capace di parlare ai convegni si compra un portavoce, un'azienda il cui direttore marketing non è creativo si compra un'agenzia di pubblicità e gli fa fare gli spot, un'azienda in cui nessuno è capace di tenere un blog stamattina, ecco, secondo me no, e la difficoltà è proprio questa. Stamattina al corso che abbiamo fatto dove c'era qualcuno parlavamo proprio di questo, dicevo: noi riceviamo continue richieste di fare da ghostwriter per un blog e rifiutiamo perché io non ritengo che sia possibile farlo, cioè è una cosa che richiede una tale interpretazione e immedesimazione in un'azienda, nei valori, nello stile, nella comunicazione, che non funziona, poi magari mi sbaglio, cioè non sono capace io di farlo. Lo facciamo, perché ma questo, il fatto di prendere proprio l'esperienza dell'azienda stessa, tutta ciò che c'è di comunicazione all'interno dell'azienda e di trasformarlo per un altro strumento, per farlo diventare efficace. Ma anche con i blog? Secondo me è possibile anche con i blog, però bisogna avere una persona che abbia proprio una forma mentis e anche una formazione sia a livello aziendale, cioè quindi che sia stata in azienda, che abbia avuto degli aspetti direttivi all'interno dell'azienda, e poi può fare il blogger a contratto, se vogliamo dire così, però deve avere una forte esperienza sia di comunicazione che personale. Però non stiamo parlando di una persona che si trova a tutti gli angoli di strada. Sì, ma Robert Scoble era un blogger e voleva fare un blog, cioè io sto dicendo una cosa diversa, noi veniamo chiamati per dire questo è abbastanza importante, il fai finta di essere, posso farlo anche per una cosa complicata come fare lo slider per i convegni, posso farlo per una brochure, posso farlo sicuramente per uno spot, da copywriter con 20 anni di esperienza, 20 anni no, 15, non mi aumento gli anni, per un blog non me la sento, nel senso che il blog è uno strumento in cui appunto è la persona che si mette in gioco e quella persona o c'è o non c'è, non... comunque questa è la mia posizione. Secondo me è un'esperienza interessante che non può funzionare in maniera continuativa, ma per singoli eventi, noi c'era anche Stefano, come sì, no, può raccontare, domande, è stato interessante, no, ma sempre per il termine della comunicazione in impresa, è stato quando SVG e Libero hanno fatto il sondaggio di selezione, loro hanno invitato alcuni blogger, hanno messo a loro disposizione informazioni fondamentalmente e hanno lasciato che questi facessero selezione su tipo di guida o pressione, quello che volevano. Il risultato è stato che 5 blogger, credo, 5, hanno raccontato 5 punti di vista diversi su come dall'interno di questo evento. Ed è stato molto interessante perché sono stati 2 giorni delle ultime elezioni vissuti dentro nella sala da guerra dei SVG, che è una delle leader nei sondaggi, quindi con i dati che arrivano ovviamente in tempo reale, con questo flop che è emerso mostruoso sul punto degli exit poll. E, è stato molto interessante essere lì e raccontare queste storie. E credo che quella storia sia stata raccontata in maniera diversa rispetto al solito. Sì, però tu la raccontavi come Paolo Guadagnino. Esattamente. Una delle possibili esperienze che un'azienda può avere è quella di può assumere un blogger, può raccontarlo ad alcuni blogger in un certo modo, ci sono N modi per farlo, per sentire come i blogger raccontano queste storie, sono tanti modi in cui le aziende possono avere a che fare con i blog. Assolutamente, però eravamo partiti da, è interessante il blog dell'amministratore delegato, se l'amministratore delegato è capace di comunicare sì, scritto sul blog, sì. Sì. Naturalmente, oggi una grande azienda o una grande banca non sia pronta, non c'è dubbio. Sì, no, questo cioè, è... dire, che ci siano motivi tecnici e o legali perché questo non sia possibile farlo, quello no. Cioè voglio dire, non si fa e non è possibile farlo perché non c'è la cultura, perché non c'è un certo tipo di cultura di comunicazione e probabilmente perché neanche c'è la necessità, non c'è al momento una pressione da parte del pubblico tale per cui una cosa del genere debba essere fatta. E credo che una cosa del genere verrà fatta quando ci sarà la pressione da parte del pubblico, quando a un certo punto la banca sarà serragliata e o incomincerà a parlare o chiuderà. Se non altro perché le altre cominceranno a parlare. Se vogliamo pensare a un esempio sempre delle banche rispetto a come quello che fanno gli altri cambia le regole del gioco, pensiamo a Fineco e a come ha costretto le altre banche a cambiare il loro modo di gestire i clienti e il fatto che molte banche non si siano ancora adattate, cioè penso per esempio a Unicredit che ha fatto il conto con condizioni simili, quello è un classico caso di regole del gioco in cui vista dal di fuori, un settore complicatissimo, chiaramente quello delle banche, chi non si adeguerà a chi fornisce condizioni migliori ai clienti non ha un futuro. Qui l'abbiamo sparata, sono le 5:30. Quando la pressione da parte dei blog, se più che quando, sarà così forte da costringere le aziende a creare questa relazione, improvvisamente tutte le obiezioni spariranno, perché questa è una cosa che in 15 anni di cui mi occupo di comunicazione ho sempre sentito lo stesso tipo di obiezione: non si può fare, siamo quotati, il tecnico, il legale, e il server, e il permesso. Nel momento in cui diventa una questione di sopravvivenza, scompaiono tutti gli elementi. In questi ultimi 3 mesi in cui abbiamo visto la pubblicità in rete fare più 50%, improvvisamente tutta la difficoltà di comprensione di internet da parte degli investitori è scomparsa. Quindi è tutto in effetti forse un po' più semplice di come lo facciamo, però è anche molto difficile, dobbiamo semplificare la... Vabbè, secondo me comunque anche è un po' come viene proposto il CEO blog o comunque il corporate blog all'azienda. Per me il primo passo fondamentale, che è quello poi che viene chiesto, quindi volete conversare con il vostro pubblico, allora la prima cosa che dovete fare è diventare persona e non più marchio. Allora, se vogliamo diventare persona e noi andiamo a una grossa azienda e diciamo apri un blog e parla dell'azienda, tiriamo dentro tonnellate di divisioni, di competenze, di cose. No, io in realtà voglio una persona che parli. E se noi andiamo a guardare poi i principali corporate blog, l'attività legata alla loro azienda spesso non supera il 40%. Lo stesso Scoble parlava della madre malata. Sì, sì. Cioè non la prima, l'80, il 70-80% del CEO blog. Come? Sì, però comunque secondo me se vogliamo trovare un punto per tanto far cadere un po' di questi paletti e un po' avere la possibilità di farli conversare senza avere l'approvazione dello staff di 40 avvocati che ogni volta che tu dici no, questa virgola non la puoi mettere, sì, è che comunque è una persona che parla. È una persona che parla che magari potrebbe esprimere un'opinione su un tipo di mercato perché ha una grandissima esperienza essendo l'amministratore delegato di un'azienda. E questo a me sarebbe, per me risulterebbe molto interessante. Anche se non parlasse mai della sua azienda, avrebbe un pubblico. Che però se lui continuasse a scrivere delle cose interessanti e valide, automaticamente il ritorno ci sarebbe lo stesso, perché io intanto so che l'amministratore delegato di una certa azienda parlato di aziende, di blog personali, però volevo capire la vostra opinione sulla possibilità di utilizzare i blog all'interno della pubblica amministrazione, perché abbiamo visto soltanto, abbiamo parlato di Gentiloni che è un blogger che adesso è diventato ministro, però proprio coscientemente come le aziende decidono di aprire un corporate blog, la pubblica amministrazione che cerca un modo diverso di parlare col cittadino con uno strumento di questo tipo. Parliamo di pubblica amministrazione come organizzazione statale o di blog di politici? Come organizzazione? Non lo so, io non ho presente casi di... C'è il blog dell'URP, c'è il sito dell'URP che... L'URP. Sì, è un modo di dialogare anche lì, però non mi sembra ancora... Se le aziende che sono sollecitate dal mercato tutti i giorni hanno difficoltà, la pubblica amministrazione ne ha ancora di più, credo, perché le responsabilità del singolo funzionario sono inquadrate in una struttura di complessità ancora maggiore, tutto sommato. Per cui non credo che nessun funzionario della pubblica amministrazione possa prendersi liberamente la libertà di fare un blog, se non in funzione di comunicazione come gli URP, certo, però sono bollettini tutta... Sì, sì, quello degli URP è il loro blog. Sì. In realtà in Francia c'è stato un grande movimento di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione partito dai cittadini di nuovo. È famoso il caso di questo, che avevo conosciuto, di questo è un giornalista, però abita in una cittadina in periferia di Parigi e ha incominciato a criticare sistematicamente l'amministrazione comunale. Cioè proprio qualunque cosa questi assessori criticava, ma in maniera motivata, però era molto... fino a che il comune gli ha fatto causa. E allora questo ha iniziato una raccolta di fondi per difendersi su internet, ovviamente è stato ripreso dai grandi quotidiani, quindi questa storia è montata, e un po' in risposta a questo, un po' per prevenire questo tipo di attività, è successo che in varie piccole città i sindaci, che hanno poteri abbastanza simili a quelli che hanno i sindaci da noi, quindi diciamo un sindaco dell'amministrazione di un comune è comunque notevolmente ha molto potere, hanno incominciato a rispondere, a descrivere, a parlare in un qualche modo, raccogliendo un sacco di commenti, ovviamente con l'aiuto poi di altre persone che in un qualche modo seguivano queste conversazioni. Però ci sono casi, in Italia non lo so, in realtà non ho presente di casi di amministratori. Ho lavorato un po' con la Regione Lombardia, in particolare con la cultura, la digicultura, e c'è molta curiosità verso lo strumento, però i problemi sono esattamente quelli delle aziende, forse appunto ancora un po' più complicati, cioè il fatto che nessuno ha la libertà di parlare liberamente. Però il punto è che un blog cioè funziona se è vivo, quindi se ogni volta che ti viene in mente qualcosa puoi pubblicarlo, se devi passare attraverso degli step di approvazione. Ma questa storia che le aziende votate non possono comunicare, devo dire mi scuso, perché le aziende votate fanno in continuazione un sacco di comunicazioni. Non avete niente da dire. Cioè veramente, se non avete niente da dire, non siete la banca per me. Ci sarà qualcosa che differenzia la banca dagli altri che sia possibile descrivere? Secondo me... Perché? Appunto! Perché? Elena, dov'è il microfono? Che le aziende quotate non è che non possono parlare, ci mancherebbe anche, parlano e lo fanno di frequente, mandano comunicati, scrivono in vari posti. La differenza e la delicatezza, che sicuramente verrà risolta, speriamo in un prossimo futuro, è quella della comunicazione di dati cosiddetti sensibili, quindi che possono in qualche modo influenzare le quotazioni di borsa, lo sappiamo tutti perché siamo tutti informati su queste cose. Il vero problema qui è che è molto labile il confine fra quello che può essere considerato sensibile e quello che no. Se io un giorno scrivo, ah cavolo, adesso non posto più con questa piattaforma perché mi ha cancellato tutto intero il post che avevo scritto ieri e quella piattaforma fa parte di un'azienda quotata in borsa, per qualcuno potrebbe essere un'informazione sensibile, per cui il giorno dopo o nella finestra di chiusura della quotazione di borsa le azioni scendono. Quindi è semplicemente, banalmente, un problema economico, ma non solo, è anche un problema dal punto di vista della responsabilità legale, civile e penale. Detto questo, se ne possono dire tantissime di cose anche per le aziende quotate in borsa, altrimenti non ci sarebbero tutte quelle che scrivono, General Motors, tutte quante le altre che scrivono. Il problema è capire qual è il confine fra le cose che sono, le informazioni che sono sensibili e quelle che non lo sono. Allora, finché non stabiliamo tutti insieme o non si capisce, ma deve essere condiviso da tutti, che una certa informazione è sensibile oppure non lo è, ci sarà sempre il problema, lo posso scrivere o non lo posso scrivere. E se lo posso scrivere poi è interessante, cioè il problema è a monte, se lo posso scrivere poi è interessante come lo scrivo. Per esempio sul blog di Skype, fanno e lo fanno nelle finestre approvate per cui si può comunicare in quel momento quella determinata informazione, quindi c'è anche una limitazione un pochino stringente. Ah, sì, sì, sì, lo fanno con tutti i modi in cui possono, il blog è un altro dei modi con cui possono farlo, ci mancherebbe che non lo facciamo. No, però abbiamo, non è vero perché, allora parliamo... No, ma scusate, ci siamo incartati partendo dall'amministratore delegato in un caso, secondo me, abbastanza poco colpa di Marco. Cioè, il fatto che il blog dell'amministratore delegato, in cui l'amministratore delegato dà notizie strategiche e finanziarie su un'azienda, è probabilmente il modo più stupido di usare un blog da parte di un'azienda. Cioè, la cosa che interessa nella possibilità di usare blog sono, secondo me, due. La prima è quella di far vedere, come diceva già qualcuno, che dietro la brand ci sono delle persone, e sono persone in cui l'amministratore delegato di Mondadori può anche parlare di giardinaggio. Se parla bene di giardinaggio, il fatto che appunto sia una persona simpatica, brillante, interessante, riconfigura il mio rapporto con l'azienda a segno 1. A me succede, poi appunto io... Aiuto, la parola. Cioè, praticamente tu dici che in questo esempio, se l'amministratore delegato di Mondadori scrivesse di giardinaggio e ne scrivesse bene, la tua considerazione dei libri di Mondadori piuttosto che delle iniziative editoriali di Mondadori cambierebbe? Allora, istituzionale, perché il rapporto con un'azienda è un rapporto complesso, cioè non vi sto a insegnare oggi che la costruzione di un brand è una cosa che è fatta di tantissimi elementi. Personalmente, qui parlo proprio a titolo mio come persona, non come esperta dell'argomento, ho un'antipatia per le aziende che nascondono le persone che ci lavorano. Quindi più ho possibilità di sapere come la pensa e chi è dietro a un'azienda, che sia la persona allo sportello, l'amministratore delegato, il direttore marketing, più mi sento vicina all'azienda perché ci sono delle persone dietro. Quindi se appunto le persone che lavorano per questa azienda entrano in relazione con me su cose che non c'entrano neanche niente con l'argomento di cui fanno, io mi sento più vicina a questo brand, però appunto ripeto, può essere un problema mio. Chiaramente se il blog invece che di giardinaggio parla di libri, è più facile che ci sia una correlazione. Se il direttore marketing di Mondadori di Libri ama gli stessi scrittori che amo io, mi sento più vicina all'azienda. Ma appunto questo è una questione di rapporto personale con il brand, che non è da tutti. Abbandoniamo l'amministratore delegato, fammi se mi fai concludere il discorso. Adesso c'è Vance che sta utilizzando il computer, prima c'era Debian, allora mentre voi parlate loro fanno delle, usano la rete. Cioè, questa per me è una lezione, come lui arriva sull'informazione è molto diverso da come ci arrivava prima Debian, e questo è, se lui mi raccontasse come si muove, mica mi deve dire vai su questo sito, vai su questo sito, vai su questo sito, mi basta guardarlo come arriva le notizie e già mi ha detto il suo pensiero su internet, sui blog, su Google, su tutta una serie di cose. Ma di questo parliamo, secondo me. Il blog poi a quel punto lì non hai bisogno di avvocati, non hai bisogno di niente, hai bisogno delle persone che ti raccontano quello che fanno, cioè come vedono il mondo. Se vuoi le informazioni hai i giornali, i bollettini aziendali, la pubblicità, tutto quello che si articola poi in una specie di muro contro muro che non ci porta da nessuna parte. Secondo me la soluzione potrebbe essere che... se uno del Rotary ha un blog e torna a casa, infatti... Cioè, se io fossi un'azienda quotata in borsa con questo tipo di problemi, non farei altro che farmi, come hanno già fatto altre aziende, che farmi un nickname in cui... dico tutto quello che dico senza essere l'azienda, poi se l'azionista, se l'indomani l'azione va male, l'azionista si arrabbia, la nostra convinzione è che il blog fatto all'interno di un'azienda aiuti l'azienda ad andare meglio e quindi l'azione ad andare meglio, questo è il framework. Però non potremmo fare un passo indietro, nel senso, cioè tutto questo movimento, diciamo così, non potrebbe servire da stimolo intanto, che ne so, per fare i siti delle amministrazioni comunali più efficienti, quindi senza pensare subito al blog. Io già oggi mi accontenterei di avere dei siti dove arrivo e trovo delle informazioni, e questo vale anche per le aziende, quello che diceva lui prima, cioè senza arrivare adesso a discutere sul blog dell'amministratore delegato di Mondadori, sarebbe bello che tutte le aziende avessero un sito e che rispondessero alla gente che gli scrive da quel sito. Poi, quando avremo superato questa fase, probabilmente potremo farne una successiva, ma a me non sembra che siamo già nella fase nella quale tutte le aziende hanno una presenza intelligente su internet, a parte i blog. Quindi, a me, sinceramente, perché io sono un bloggatore dalla primissima ora, appunto, però il blog di Veltroni mi piace tantissimo, mi piacerà quello di Letizia Moratti, speriamo, a parte l'operazione sui blog che ha fatto, che comunque... evidentemente è servita, però a me interessa di più che il sito del Comune di Milano, se io vado a cercare una cosa, mi restituisca quell'informazione. Poi il problema della conversazione me lo pongo dopo, voglio conversare in questa fase con altre persone. Infatti era un po' volevo concludere il discorso fatto prima, cioè posto che il fatto che in un'azienda lavorino persone intelligenti migliora il mio rapporto con l'azienda, se questa azienda comunica in modo intelligente i suoi prodotti, per questo dicevo ci siamo incartati sul delegato, chi se ne frega, se le recensioni dei libri sul sito di Mondadori sono scritti con un tono di voce umano, come se fosse un blog, chi se ne frega se non è un blog, cioè non è che siamo affezionati allo strumento. Il punto è esattamente questo, cioè prima ancora di preoccuparci di far parlare le persone, dobbiamo preoccuparci di parlare dei prodotti che vendiamo in... come se fosse una conversazione, qual è, e questo è il punto da cui passare prima di arrivare alla voce poi delle singole persone, e questo è assolutamente fattibile, non esistono assolutamente problemi né legali né tecnici, così c'è solo la capacità di farlo o no, prima ancora che la volontà. Ma sai, magari anche nell'ufficio stampa ci sono delle persone che hanno il tono di voce e la capacità giusta, perché io continuo a incontrare tantissime persone che ci lamentiamo tutti delle stesse cose, lavoriamo in un certo modo perché siamo obbligati a farlo. Era uscito un bellissimo articolo sui quotidiani, dove appunto, un post, dove appunto questo giornalista si lamentava di tutte le energie blindate e inespresse che ci sono all'interno delle redazioni, perché tutti i giornalisti sono imprigionati del vecchio modo di fare notizie. E all'interno delle redazioni tutti noi diamo per scontato che i giornalisti vogliano lavorare così, che nell'ufficio stampa vogliano lavorare così, che nei comuni vogliano lavorare così. In realtà la maggior parte delle persone non vedono un po' l'ora di essere lasciate libere di esprimere il loro potenziale, e quindi, però torniamo sempre lì, è una questione di cultura. Abbiamo depresso Paolo Valdemarin. Questa è la differenza. Al di là di questo discorso con cui ci siamo anche un po' incartati, no, del blog dell'amministratore delegato, che però in America funziona, qui abbiamo visto che forse non siamo pronti o forse si vedremo altri casi virtuosi di rapporti fra l'azienda e lo strumento blog, sia come voce dell'azienda all'esterno, costruzione di una personalità, di una presenza in rete all'esterno, ossia anche, qui faccio un altro salto però, come uso interno di uno strumento blog interno aziendale. Che esperienza, che opinioni avete? Grazie. Vado io? C'è qualcuno? Un caso interessante è quello di Vichy, è in francese però, credo che stiamo per farlo anche in italiano, imparando dagli errori dell'esperienza francese. Errori perché il blog è partito come il copia e incolla delle descrizioni dei bugiardini. Io chiamo bugiardini come quelli delle medicine, perché quindi era un tono assolutamente promozionale, manipolatorio, formale, illusorio, facendo finta che fossero delle persone reali a scrivere, quindi la cosa era ancora più grottesca. Sono stati E la cosa interessante è che se ne sono resi conto strada facendo, hanno fatto una specie di outing, cioè hanno detto va bene, ok, ci abbiamo provato, il blog così non funziona, da domani cominciamo a scrivere sul serio quello che pensiamo e non quello che dobbiamo dirvi per vendere i nostri prodotti. E il blog, che si chiama Journal de Mapo, è diventato un punto di riferimento abbastanza interessante per la comunità di persone interessate ai prodotti di bellezza, con questa cosa abbastanza tipica per un'azienda, cioè di fermarsi e dire abbiamo sbagliato, adesso cambiamo strada. Quindi è un caso abbastanza. Ah sì, poi c'è un caso italiano, lo ricordo sommariamente, è un caso simile a quello delle graffe che abbiamo visto prima, cioè simile a un certo punto, ma a lieto fine, perché in questo caso si parla di biglietti da visita, una tipografia che fa dei biglietti da visita non soddisfacente, e una persona rimane poco soddisfatta, scrive sul suo blog questi biglietti che hanno scritto, non sono contento del lavoro della tipografia, la tipografia rintraccia il post attraverso i motori di ricerca, credo, minaccia di denunciare, di querelare la persona che ha scritto questo giudizio, e parte la classica contrapposizione tra, insomma, la richiesta di togliere il post in cui si articolano questi giudizi e conseguente supporto di tutti i blog, amici di questo blog, che ovviamente dicono vabbè, non puoi chiedere di togliere, ma insomma, più o meno quello abbiamo visto prima. La differenza è che questa tipografia, dopo questo primo impatto molto brusco, molto ruvido, è stata consigliata, comunque ha cominciato a dialogare, ed è stato consigliato di a sua volta aprire un blog per dire la sua opinione, per comunicare quello che il suo punto di vista è, non so, che cosa mi ha poi comunicato, tant'è ha aperto un blog, credo che ce l'abbia ancora, l'incidente si è chiuso con un generale apprezzamento di questa tipografia che era stata tanto brava da rivoltare una situazione sfavorevole portandola a suo favore. benissimo dialogare. La tipografia ha ringraziato il blogger dell'opportunità. Sì. Per cui gli ha detto grazie che ci hai insegnato questa cosa, perché attraverso questo meccanismo di fatto abbiamo trovato altri clienti. E io mi ricordo uno dei primi post, addirittura i commenti di questa tipografia al blogger, era del tipo: ma noi siamo onesti, noi siamo bravi, abbiamo tanti clienti contenti, ci dispiace che lui non sia contento. E lì vedevi veramente l'esasperazione di questi che dicevano: ma noi effettivamente non ci stai rovinando. Ed era, di fatto è stato interessante, perché c'è stata veramente una conversazione in pubblico tra un fornitore e un cliente, che è andata bene perché alla fine c'è stata conversazione. Queste cose si rompono se non c'è conversazione. È un'opportunità. Cioè, è un'opportunità, di fatto è un'opportunità di business. Voglio dire, Amazon insegna, cioè Amazon è l'azienda che se tu li chiami perché non ti è arrivato il pacco, te lo rimandano, te lo spedizione, e tutti raccontano storie di questo tipo di Amazon, che funziona. In caso di un paio di settimane Mondadori nell'area periodici, esterno, quindi vabbè, non è ancora partito, quindi non è che ti posso dire come andrà. Scusa, non ho capito. No, assolutamente, no. Quindi non la bloccherà nessuno. No, ci mancherà. Poi domani mi licenza, non è un problema. Comunque già solo l'idea di farlo ovviamente genera dello sconcerto, perché prima bisogna passare dal personale, poi dai legali, poi da qui. Però l'idea è proprio, come dire, in questo caso è proprio di far parlare, siccome Mondadori, come molte grandi aziende, ha dei problemi di comunicazione interna, quindi l'idea è che questo inizi a favorire la comunicazione, la conversazione, magari anche in modo provocatorio. Quindi sicuramente all'inizio ci saranno un po' di persone che faranno poi provocatori, no? Quel titolo su grazie faceva schifo, ma quella foto dove l'avete presa, ma con The Nast sono molto più bravi, eccetera eccetera. No, anonimo no, non ci sarà nessun anonimo, ci sarà tutto nome e cognome, però come dire, il fatto che il giornalista neoassunto fino al capo della divisione femminili, diciamo tutti partecipano alla stessa arena, è un fatto molto innovativo per noi, perché neanche le bacheche abbiamo, quindi questo è un salto, diciamo abbiamo saltato le bacheche e arriviamo direttamente al blog. Abbiamo un internet, però diciamo non è una cosa della quale andare fieri al momento. Sì, facciamo proprio un salto fortissimo. E, il fatto di iniziare all'interno è sempre un buon primo passo, perché ti consente di individuare persone più brave a comunicare, I blog, con la mia azienda si occupa specificamente di sviluppo della piattaforma per il blogging dentro le aziende. I blog dentro le aziende consentono di rispondere alla grande domanda che esiste in tutte le grandi aziende, che è: che cazzo fa quella in fondo al corridoio? Perché in realtà nelle grandi aziende spesso c'è questo problema, c'è capire effettivamente, io sto facendo un lavoro, esiste la mission dell'azienda che è scritta sulla home page della intranet, che ogni tanto vado a guardare perché il browser si apre di default, ma io non ci voglio andare veramente. Cosa c'entra quello che faccio io con la mission e nel contesto di quello che fanno tutti gli altri? Allora, i blog dentro l'azienda consentono di fare cosa? Consentono di sviluppare quella che viene chiamata la narrativa del lavoro. Cioè, ognuno racconta, alcuni raccontano un po' di quello che fanno dentro l'azienda. E questo dà la possibilità a tutti gli altri di capire meglio come funziona l'azienda, di rendersi conto delle difficoltà che hanno le altre persone. Quello che è interessante è che intanto non è necessario che tutti partecipino, nel senso che anche nel momento, siccome stiamo parlando di condivisione di idee, noi statisticamente quello che abbiamo visto è che il 30% delle persone partecipa, un 30-40% delle persone partecipicchia, cioè ogni tanto scrive qualcosa, da poco, partecipa e scrive, un 30-40% partecipa nel senso che ogni tanto scrive qualcosa, ma di solito non fa niente, e un rimanente 30-40% sta a guardare, cioè è la fascia che ne abbiamo chiamato lazy bastards, sono quelli che stanno lì e non partecipano attivamente. Di questo insieme però, questo crea un presupposto per cui prima il 100% dell'azienda non sa niente, dopo il 100% dell'azienda sa quello che pensa un 30-40% dell'azienda. Siccome normalmente il 30-40% dei più attivi include il management, che in linea di massima è quello che ha più visione, nel senso che sta seduto in un posto in cui si rende un po' più conto di cosa succede nelle aziende, crea i presupposti per cui ci sia molto più trasparenza. E questo risolve un altro grande problema delle aziende e fa arrivare le cattive notizie ai manager, che è uno dei problemi che hanno un altro problema che hanno le aziende. I manager, attraverso il sistema di delega, riescono magari a mandare l'ordine, però spesso il feedback non torna indietro, perché nessuno ha coraggio di dire, cioè nessuno dà la cattiva notizia a quello che sta sopra. L'azienda è fatta in modo che a quelli che stanno sopra si dice: come va, te? Tutto a posto. Per cui ci si rende conto che c'è un problema troppo tardi. Creando questa conversazione, creando questa narrativa del lavoro, si fa sì che effettivamente ci si renda molto più conto di che cosa succede dentro l'azienda. Anche nelle aziende più piccole, io ho letteralmente scoperto gente che lavorava con me da anni quando abbiamo introdotto i blog in azienda. C'è situazioni in cui c'era un programmatore, noi siamo sparsi, abbiamo sede a Gorizia, Padova, Londra, in giro. Abbiamo sviluppatori che lavoravano nella sede di Padova, non è che avessero a che fare normalmente con me, soprattutto non mi mandano l'email, dicono: hai visto queste notizie? Però hanno cominciato a scrivere sul loro blog, che io leggevo e che trovavo molto interessante, perché loro si abbeveravano a fonti diverse dalle mie e comunque processavano la realtà dal punto di vista dell'azienda. E per me, che amministravo l'azienda, una cosa del genere è fondamentale, perché riesco ad avere molte più informazioni. Per cui dopodiché ci sono quelli che non parlano e non parleranno mai, perché non sono portati, non sono interessati, ma comunque anche quelli partecipano passivamente, perché di fatto accedono alla qualità di informazioni che prima non avevano, e quindi sono comunque in grado di lavorare meglio. Volevo dire una cosa, prima lei ha fatto più o meno 4 ore fa, ha fatto la domanda se tutti sapevano cos'erano i blog. Io ho detto di sì, perché, come ho detto da poco, però a questo punto mi rendo conto che poi sono capitato nel posto sbagliato. No, sto scherzando. Però adesso vi dico una cosa, adesso dico una parola che non so, forse magari vi fa un po' orrore, ma che differenza c'è tra un blog e un forum? No, chiedo scusa, adesso lo dico, finisco, perché io quello che ho capito è che in un blog uno scrive le sue opinioni, poi qualcuno, se vuole, commenta, fa un commentino piccolino, sì, sono d'accordo, no, non abbatterti così, cioè, mentre invece nel forum c'è una discussione. Io vedrei queste su questo momento parlo vedrei meglio come un forum, cioè uno pone un problema e poi c'è una discussione di più persone. Forse ho detto una stupidata. No, è una cosa giusta, però c'è una differenza principale tra blog e forum. Un forum è organizzato in thread, in temi, per cui si parla di un certo argomento in un certo luogo. E come possiamo descrivere il forum come un luogo pubblico? È un luogo in cui si va a discutere, ci troviamo in questa sala pubblica e parliamo di un certo argomento. Un blog, nel blog il tema è la persona. Il blog è mio, c'è il mio nome e contiene cose che interessano a me. Poi altri possono partecipare da me o da loro. Però la differenza principale qual è? Io che sono qua, ho incontrato voi, abbiamo parlato adesso durante il feedback, dopo. Stasera torno a casa e scriverò un post sul nostro blog interno dicendo sono andato là, ho incontrato queste persone, c'era in particolare uno di una barca. Cioè, e comunque l'amministratore delegato non aprirà mai un blog. Ma non è un argomento di discussione, non lo metto in un pezzo di forum. Io semplicemente condivido un pezzo di informazione con i miei colleghi. No, appunto, per quello. Quindi un blog aziendale vuol dire che ogni dipendente avrà il suo blog all'interno. Ah, questo. Non avevo capito, pensavo ci fosse un blog unico in cui i dipendenti scrivevano. Non ci sono dipendenti. Perché a questo punto non è. Vabbè, un blog collettivo. Devo studiare ancora, insomma. Rispetto alla definizione, sono d'accordissimo che il blog corrisponde alla persona, però il blog può corrispondere anche a mille persone, cioè rimane un blog perché queste persone possono anche semplicemente condividere un pezzo di informazione senza aspettarsi la discussione. Io dico condividere un'informazione è una cosa, ma far discutere su un argomento la vedo un po' più, il blog forse non è proprio lo strumento più adatto, diciamo, per discutere, uno dice una cosa, uno dice una contraria, uno obietta, non la vedo insomma forse. No. Sì, diciamo, blog no, l'insieme dei blog sì. Le aggregazioni. Quello che sto dicendo allora, se ogni dipendente ha il suo blog, allora la vedo, uno risponde all'altro blog facendo il link al post o alla cosa del genere. Se invece c'è un blog solo e 100 persone dell'azienda scrivono su quel blog, la vedo un po' più incasinato, diciamo, la discussione. Esistono delle soluzioni tecnologiche per riaggregare a valle gli argomenti per tema. Per cui alla fine io sono in grado sia di analizzare gli argomenti, una conversazione o una serie di post, cioè di pezzi di cose messe per argomenti. Ci sono due driver principali per cui ci si interessa delle cose dentro un'azienda. Uno sono i temi, cioè io voglio sapere quello che viene detto a proposito di questo argomento, a prescindere da chi ne parli, perché sono interessato a questo argomento. Oppure mi interessa tutto quello che dice lui perché siamo amici. Per cui se lui parli di politica o del suo gatto o di redazione di libri sui blog, mi interessa. Di nuovo, siccome i blog sono un'espressione di una relazione sociale, e che è tanto più importante per un'azienda perché le aziende si è costretti a convivere, danno la possibilità effettivamente di creare delle interazioni tra le persone in maniera anche molto più delicata rispetto ai forum. Essendo un luogo pubblico, un forum è un posto in cui bisogna andare e partecipare in maniera, soprattutto nel nostro contesto di cultura occidentale in cui ognuno deve affermare la propria ragione, diventa solo quelli più forti partecipano nei forum. Un blog di fatto, siccome è uno spazio mio, io nel mio blog scrivo le cose che mi interessano e anche se non partecipo alle discussioni degli altri, comunque racconto il mio lavoro e contribuisco a... Però non è detto che ci sono tantissime sfumature, per cui si può passare dal forum al blog passando per tutta una serie di passaggi intermedi. Comunque, ad esempio, in termini di blog singolo contro blog in cui scrivono tanti, noi adesso stiamo avendo buoni risultati con dei blog divisionali, nell'ambito in cui tutte le persone dentro la divisione possono scrivere e quello che scrivono è visibile dagli altri che sono della divisione. Solo alcune delle cose che sono scritte a livello di divisione poi vengono da alcuni membri rese visibili agli altri. Per cui il post che dice sono finite le mattine delle armadie in fondo al corridoio è un post che ha senso, è un'informazione utile alla divisione ma non al resto dell'azienda. Il post del tecnico dell'IT che dice sta per arrivare un nuovo virus informatico è un'informazione che di fatto può essere passata al resto dell'azienda. No, ma non... Ah, ok, avete pagato fino alle 6, quindi canterò una canzone sulla nuota. Scritto da Fabio Ventidieri, dovevamo citarlo. No, tra l'altro, appunto, se volete continuare la conversazione, noi siamo online, siamo più che disposti a farlo. E... in realtà i nostri blog, il mio non è un blog serio, infatti io non sono stata invitata da Yahoo. No, no, no, sono guarda. Andare firmato Fineco, firmato Poste Italiane, però non lo so, io non conosco nessuno. Che mio marito mi ha girato la mente dicendo: questo secondo te è un phishing o no? Io ho risposto: ok, hai bisogno di una settimana di vacanza, perché l'ho scritto appunto. Comunque no, figurati. Sì, no, io stavamo scegliendo una banca per il e incontriamo uno di una banca, no, adesso mi ha detto e vedo che c'è l'indirizzo in lei, no? Dico, ah, hai l'indirizzo in lei, finalmente possiamo comunicare, non lo so, no, no, mi fa, sì, sì, tu puoi scrivermi, ma io non posso risponderti. Questo era il servizio della posta, in entrata funzionava, ma in uscita no, potevano solo tra di loro. Vabbè, come quando ti arrivano... Però devo dire che non lavoriamo con un'altra banca. Comunque quando ti arrivano le mail, tra l'altro se non ricordo male anche da voi, con scritto sopra non rispondere a questa mail perché non è presidiata da un essere umano. Ma come? Io sono 5 anni che devo 2,50 euro eBay e non mi prende la carta pagamento con la carta di credito, mi rifiuto di andare in posta a fare vaglia postale e non riesco a comunicare. Infatti mi hanno mandato per mesi, ogni mese mi arrivava il saldo aperto, poi hanno smesso anche di mandarlo. 2,50 euro, sì. Però appunto le mail che ti dicono non rispondere a questa mail perché non vedi il sistema. Beh, è sempre meglio i 30 centesimi dell'azienda del gas di Milano, che è uno dei ricordi che mi porto in Friuli, dove adesso abito, che oltre al conguaglio finale ha fatto un ulteriore conguaglio in seguito a una serie di provvedimenti legislativi, da cui risultava un accredito a mio favore di 30 centesimi, quindi solo la spedizione sarà costata, non so quanto siano le spedizioni facilitate per le aziende di quel tipo. Però io dovevo mandare un'altra lettera in cui dicevo che sì, effettivamente ero io, quello era l'indirizzo giusto a cui accreditarmi, altra lettera, 80-40 centesimi quanti sono, a quel punto loro mi mandavano l'assegno con una terza lettera, con un assegno. Il tutto naturalmente sottoposto alla possibilità di un ultimo conguaglio, perché la legislazione non era ancora del tutto così, c'era una qualche pendenza. Va bene, grazie a tutti.